Letture di Radio 24. Le due nazionali di India e Pakistan non si erano mai trovate rivali in una fase così avanzata della Coppa del Mondo di cricket. Sembra che la semifinale, vinta dall'India senza grandi colpi di scena, si sia rivelata però un'ottima occasione per un improvvisato incontro diplomatico tra i leader dei due paesi, nemici storici. Non c'è nessuno neanche su Facebook. Stanno tutti guardando la partita. Sorride Rini Khanna, una delle poche persone davanti al PC, ieri a Nuova Delhi e dintorni. Perché ieri l'India si è fermata. E il Pakistan pure. I due paesi arcinemici per una giornata hanno vissuto all'unisono. Negozi chiusi, strade vuote, operazioni rinviate negli ospedali, l'infernale frastuono delle metropoli silenziato, unico rumore il boato di tifosi esultanti o delusi, stipati davanti a maxi schermi nei bar e nei pochi uffici aperti, assaporando cricket menu e sorseggiando drink con i colori della bandiera. Più che due squadre, due interi paesi si sono affrontati ieri per 8 ore a colpi di mazza nel Punjab indiano, in quella che i media del subcontinente hanno ribattezzato la madre di tutte le sfide, la semifinale della Coppa del Mondo di cricket. La passione sfegatata per lo sport ereditato dai britannici accomuna più di qualsiasi altra cosa pakistani e indiani. A Calcutta i bambini organizzano tornei in strada con bastoni di legno e pietre al posto della palla, il gully cricket. Mai però le due nazionali si erano ritrovate rivali in una fase così avanzata del campionato. La partita nello stadio di Mohali non ha riservato grandi sorprese. L'India, avanti di 39 punti, si è confermata la migliore come negli ultimi 4 confronti mondiali. Saranno quindi i blu indiani, trainati dalla superstar Sachin Tendulkar, soprannominato Dio tra i più grandi battitori di tutti i tempi, per lo scrittore Ramachandra Guha è il balsamo della nazione, a giocarsi sabato a Mumbai la grande finale contro lo Sri Lanka. Se il risultato sportivo del match, applaudito dalla tribuna d'onore dal premier Manmohan Singh e accolto con un esultante pugno in aria dalla leader del congresso Sonia Gandhi, era quasi scontato, resta incerto il suo esito diplomatico. Allo stadio, durante la partita, si è svolto un mini vertice tra Singh e il premier pakistano Yusuf Gilani, che si spera possa accelerare il disgelo in corso. Nel primo derby in suolo indiano dagli attentati di Mumbai, la febbre sportiva si è caricata di aspettative politiche dopo che il leader pakistano aveva accettato l'invito del premier indiano. E si è tornato a parlare di diplomazia del cricket, come nel 2005, quando Singh invitò allo stadio a New Delhi il presidente pakistano Musharraf e il clima disteso della partita offrì il pretesto per avviare nuovi colloqui di pace poi sfociati in un accordo sul Kashmir. Ma da più parti questa volta è stata invocata la separazione dello sport dalla politica, per paura che la battaglia in campo potesse continuare fuori e alimentare la sfida politica. «Qualcuno deve perdere questa partita, indipendentemente dai colloqui politici», aveva scandito prima del via il capitano della squadra indiana, Mahendra Singh Dhoni. Gli aveva fatto eco il suo collega pakistano. «Non siamo venuti per combattere una guerra, siamo venuti per giocare una partita». C'è chi ha cercato di stemperare l'amarezza degli sconfitti dispensando complimenti sentiti all'avversario. Il Pakistan si è difeso bene, commenta Rakesh Sharma, nonostante la squadra sia stata fiaccata dallo scandalo delle tangenti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «La sfida a cricket tra India e Pakistan diventa super vertice tra i due arcinemici» di Alessandra Muglia, dal Corriere della Sera di giovedì 31 marzo. Letture di Radio 24. Sotto il Centre Pompidou a Parigi, Pierre Boulez creò l'IRCAM, istituto musicale dove nascono i suoni di domani. Tra strumenti all'avanguardia e banche date di suoni inimmaginabili, spunta anche un compositore italiano. Fra l'ammirato e il beffardo, perché non si è toscani per niente, definisce l'IRCAM, dove sta componendo un concerto per organo, ensemble ed elettronica, una gabbia di matti. Del resto, ha scritto, come diversi suoi predecessori fiamminghi del 400, una messa sopra la melodia dell'Homme Armé, solo che nella sua quattro percussionisti suonano 36 diverse armi da fuoco, fra cui un Kalashnikov. Lui si chiama Francesco Filidei, è pisano, 36enne, molto simpatico, un po' eccentrico, e fa il compositore. Però non si capisce nulla di quel che dice se non si spiega dove lo dice. All'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, dal 1970, cioè da quando Pierre Boulez riuscì a convincere Georges Pompidou che la grandeur della Francia passava anche dalla contemporanea, il principale posto al mondo dove si cerca la musica di domani. L'IRCAM è un incrocio fra l'antro dell'alchimista e una centrale nucleare, o, tanto per restare in tema, un rifugio antiatomico. La maggior parte del complesso è sottoterra, più o meno accanto al Centre Pompidou, nel cuore di Parigi. In Italia non c'è nulla di simile. Anzi, non c'è nulla di simile al mondo, spiega Filidei. Classico esempio di fuga dei cervelli. O di fuga dal cervello, come dice lui. Da 10 anni vive e lavora a Parigi dopo la Spagna e la Germania. Per chi vuole scrivere musica contemporanea, l'IRCAM è il paradiso. Tutti compongono al computer, con programmi di mostruosa complessità. Infatti il suo Filidei l'ha battezzato Pacciani, come il mostro di Firenze. Adesso deve completare il concerto per organo che sarà eseguito il 18 giugno nella vicinissima chiesa di Saint-Eustache per il festival Agora. Sono un po' in ritardo, preoccupato per mia moglie che è giapponese, compositrice pur lei, ed era a casa quando è successo quel che è successo. Filidei alla musica contemporanea ci crede davvero. Basta farla finita con i dogmatismi. Semplicemente scrivo la musica che mi piacerebbe ascoltare. E poi bisogna avere fiducia nel pubblico, che capisce molto più di quel che si pensa. Prossimo titolo teatrale, se tutto va bene, un'opera su Giordano Bruno. Questo compositore high-tech, peraltro, ha due passioni che non t'aspetti. Una per Puccini, perché primo, viveva a pochi chilometri da casa mia e, secondo, c'è poco da fare, noi italiani l'opera l'abbiamo nel sangue. L'altra, secondo una tradizione invece molto francese, per l'organo. Lui suona a Saint-Eustache, dove c'è l'organo più grande di Francia. Quindi, se nottetempo passate dalle Halles e sentite Bach echeggiare nell'orme chiesa gotica che le sovrasta, sappiate che non è il fantasma di Rameau, che è sepolto lì, ma solo un compositore di oggi che omaggia quelli di ieri. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'antro dell'IRCAM, dove nascono i suoni di domani, di Alberto Mattioli, dalla stampa di sabato 2 aprile. Dal 1 maggio, anche in Cina, sarà vietato il fumo nei luoghi pubblici. Ma c'è chi teme che prima di vederne i risultati dovranno passare molti anni. Sembra infatti che togliere una sigaretta di mano a un cinese sia un'impresa molto difficile. È la guerra più incerta della storia, ma anche la Cina tenta di spegnere l'ultima sigaretta. Dal 1 maggio, 300 milioni di fumatori non potranno più aspirare nei luoghi pubblici. Se il divieto sarà fatto rispettare, l'aria della nazione più inquinata del mondo risulterà un po' meno irrespirabile. L'annunciato no smoking arriva però in ritardo e parte tra mille difficoltà. Pechino ha sottoscritto la convenzione antifumo 5 anni fa e si era impegnata a renderla operativa dal 9 gennaio scorso. Vizio e business si sono rivelati resistenti ad ogni minaccia e l'onnipotente Partito Comunista ha dovuto infine arrendersi. Norme generali sulla limitazione del tabacco e pene per i trasgressori non sono state approvate. Rinviato lo stop. In Cina i cultori della sigaretta rappresentano il 36% di quelli viventi sulla terra. Il monopolio di Stato produce ogni anno il 7% delle entrate fiscali del paese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato che 1,2 milioni di cinesi muoiono annualmente per malattie correlate al fumo. Entro il 2030 la cifra esploderà a 3,5 milioni all'anno. 70 milioni di cinesi vittime in 20 anni. Per il sistema sanitario il costo dei maniaci della tirata ormai è proibitivo. Togliere la cicca a un cinese è però come levare il bicchiere della vodka a un russo. Si rischia una rivolta di massa o una robusta alzata di spalle collettiva. Di qui cautele, eccezioni e un'inedita tolleranza della polizia. Un'indagine ha rivelato che la metà dei medici cinesi e i 2/3 dei funzionari consuma 2 pacchetti di sigarette al giorno. Il divieto riguarderà dunque parchi, alberghi, ristoranti, negozi, sale da tè, teatri, musei e mezzi pubblici. Non varrà invece in uffici e fabbriche, nei palazzi dell'amministrazione e nelle università. I distributori automatici spariranno dalle strade, ma il rischio naufragio resta alto. All'inizio gli agenti potranno invitare i trasgressori a spegnere la sigaretta, ma non multarli. Nessuno avrà paura di farsi una cicca dove e quando gli pare, dice Yang Wan, direttore dell'Ufficio Nazionale per il Controllo del Tabacco. Prima di vedere i risultati potrebbero passare decenni. L'unica cosa certa è che i luoghi aperti al pubblico dovranno esporre cartelli di divieto e offrire aree riservate ai fumatori. I precedenti non sono incoraggianti. Prima delle Olimpiadi, Pechino tentò invano di adottare le restrizioni internazionali. Shanghai, alla vigilia dell'Expo, annunciò che nessuno avrebbe più fumato in pubblico. Risultato: milioni di fumatori si sono fatti beffe dell'annuncio e continuano a tirare anche davanti ai cartelli plurilingue. In 3 mesi è stata multata una sola persona, 5 in un anno. 12 locali minacciati da una sanzione. Una goccia nell'oceano. Le autorità, per non perdere la faccia, sono corse ai ripari. In Cina già oggi non si fuma più, ma solo nei film e alla TV, purché di partito. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'ultima sigaretta, la Cina si ribella al divieto di fumo, di Giampaolo Visetti, dalla Repubblica di giovedì 31 marzo.